America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano. Mario Platero, sono rientrato da Antalya, dove si è tenuto il G20, un G20 molto interessante. Dedico proprio a questo G20 la copertina, perché quello che è successo a Parigi ormai appartiene al passato, il futuro invece è come si reagirà a questa sfida. E dunque questo G20 è stato proprio il G20 che ha raccolto la sfida, il G20 della reazione all'attacco a Parigi, per esempio con i bombardamenti aerei francesi a Raqqa, capitale del califfato. È stato il G20 della guerra senza tregua contro l'ISIS, fino a quando non sarà decimato e sconfitto, come ha detto a un certo punto il presidente Barack Obama. In effetti, in questo G20 la svolta che c'è stata, una svolta importante, è stata quella per l'unità di intenti e per l'unità di azione. Sentiamo il presidente Barack Obama. Our goal, as I've said many times, is to degrade and ultimately destroy this barbaric terrorist organization. Avete sentito Obama, dice: l'ISIS non è uno stato ma un gruppo di killer, e la lotta contro l'ISIS non è una lotta convenzionale, siamo in effetti in una guerra asimmetrica. Siamo uniti, ha detto Obama, di fronte alla minaccia dell'ISIS. L'ISIS è il volto del male e dobbiamo distruggerlo. Non ci sono state delle dichiarazioni roboanti. Il primo paragrafo del comunicato del G20 è stato dedicato proprio al terrorismo, alla lotta contro il terrorismo, ma non sono stati, come dire, emessi dei proclami, degli annunci per delle cose specifiche. Perché? Beh, perché l'impianto è già in place, come si dice in inglese. L'impianto c'è già, è un impianto che passa per gli accordi di Vienna, che passa per i bombardamenti aerei, che passa per gli addestramenti delle truppe di terra che debbono combattere l'ISIS, soprattutto curdi, ma soprattutto sunniti. Un accordo per condividere l'intelligence ed evitare che episodi come quelli di Parigi si ripetano. Cameron, il primo ministro britannico, ad esempio, ha detto che grazie a una condivisione di intelligence la Gran Bretagna è riuscita ad evitare ben 7 attacchi terroristici. Ma sentiamo ancora Obama, perché c'è stata una piccola polemica. Pensate che il senatore Cruz a un certo punto ha detto che l'America poteva accogliere dei rifugiati dalla Siria, sì, però dovevano essere interrogati per capire se erano cristiani, perché se fossero stati musulmani, beh, dice Cruz, allora non dovremmo farli entrare. Barack Obama ha definito questa posizione uno scandalo anti-americano. Sentiamolo ancora. Folks say that, well, maybe we should just admit the Christians but not the Muslims. That's shameful. That's not American. It's not who we are. We don't have religious tests to our compassion. Ecco, qui chiaramente Obama afferma quello che è giusto affermare. L'ISIS non rappresenta l'Islam, la stragrande maggioranza delle vittime del terrorismo è musulmana. Gli stereotipi sono controproducenti. Però un messaggio Obama l'ha dato. Ha invitato le comunità islamiche in ogni paese di partecipare, di aiutare le forze dell'ordine. Siete voi, ha detto Obama, che dovete aiutarci a prevenire questi crimini. E poi, devo dire, durante la conferenza stampa Obama è stato molto sotto attacco. I giornalisti continuavano a chiedergli se la sua strategia contro l'ISIS, se la sua strategia medio orientale non sia stata un fallimento. E Obama rispondeva, poi all'ennesima domanda, ha risposto un po' seccato. Sentiamolo. I just spent the last three questions answering that very question, so I don't know what more you want me to add. We have been mounting a very aggressive strategy to go after them. Andiamo avanti, dice Obama, sulla strategia che ha le migliori possibilità di successo. Non sono interessato a queste polemiche, non ho tempo da perdere su queste quisquiglie. Io devo fare tutto il possibile per proteggere i cittadini americani. Obama ha confermato che non manderà truppe di terra, ma che ci saranno questi soldati americani che sono già sul campo delle forze speciali, destinati ad arruolare i locali. Spero, ha detto Obama, che ci sia una maggiore partecipazione da parte di tutti. Questo è il nostro spirito e lo spirito del G20. L'unità è dunque il compromesso per una linea comune e il nuovo paradigma emerso da questo G20 di Antalya, che nei programmi originari doveva soprattutto occuparsi di rilancio della domanda, di investimenti strutturali e di puntare su una crescita sostenibile per tutti. Di questo si è parlato e magari ne parleremo nei prossimi giorni, ma se per fortuna non abbiamo un'emergenza sul fronte economico, l'abbiamo su quella del terrorismo. Che ognuno tragga le sue conclusioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la Francia ha confermato ieri per bocca del presidente Hollande di essere in guerra, ha chiesto l'aiuto di tutti i paesi europei in questa guerra. Dunque, dei The National, Start a War. We expected something, something better than before. We expected something more. Safe behind a painting, lock it up and leave. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Walk away now, and you're gonna start a war. Da Milano al ritorno del G20 di Antalya è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.